Diamo la parola per un saluto al segretario generale della FNP Emilia Romagna, Loris Cavallini, che si prepara benevolo. Grazie dell'invito. Mi ero promesso di venire stamattina, ma purtroppo, diciamo, con mia moglie ieri gli hanno fatto la cataratta e stamattina da portare la visita. Di solito sono le donne che assistono gli uomini e non l'ho voluto lasciare solo, perché poi ho tutte le figlie in giro, quindi però è stato interessante, perché è un modo anche nuovo di affrontare, perché io vado in regione, ci spiegano che le liste d'attesa sono calate, sono diminuite e così via, quando poi invece vai con una persona, perché questo è anche un modo nuovo di fare ricerca, invece di partire dal generale, partire da... No? Allora, a mia moglie, siccome deve farlo un altro, gli ha detto, bene, la prossima visita la farà a dicembre 2019. Ha detto, scusa, ho capito bene? Dice, sì. Però non è che viene operato il 2019, poi lì si va alla visita, dopo l'operazione passeranno altri... Io ho detto, vabbè, ma tanto noi viviamo fino a 120 anni, non preoccupate. Però ho preso anche un calcio per l'operazione. Comunque no, per dire anche che... Io ho letto così velocemente, ma sono venuto soprattutto per ascoltare, perché io penso solo due cose. Penso che noi siamo in un momento molto particolare e molto importante. Il tema del rinascimento del sindacato, credo che per noi, come pensionati, sia fondamentale, perché credo che anche al nostro interno, come CISL, dobbiamo chiarirci bene se noi abbiamo titolo a stare nel sindacato fino in fondo. Cioè se la nostra esperienza come pensionati è un'esperienza che è al pari delle altre categorie. Dico questo perché io sono tanti anni che ci sono e soprattutto ho un rapporto molto... mi piace stare con i giovani, parlo con i giovani sindacalisti. Nel mio territorio non è una cosa scontata. Allora, siccome la CISL ha messo a tema la persona e il lavoro, e siccome io vengo da Reggio, siccome Dossetti nella Costituzione ha scritto che l'Italia si fonda sul lavoro e non, come Togliatti voleva, sui lavoratori, il lavoro nell'espressione, nella concezione di Dossetti, riguarda la persona nel suo insieme, non è il concetto del lavoro salariato, è un concetto del lavoro come partecipazione a un disegno più grande. E guardate che nella Costituzione c'è un concetto laico dove si dice che la persona, bisogna pensare al bene della persona anche dal punto di vista spirituale, e lo dice da un punto di vista laico, non confessionale, non mi interessa a livello confessionale, mi interessa. Quindi noi, dal mio punto di vista, abbiamo titolo fino in fondo di stare dentro questa organizzazione, dentro la CISL, perché il concetto di lavoro è un concetto che ci riguarda, perché il futuro, a parte che il futuro è il presente che noi viviamo, e il futuro deve rimettere al centro il lavoro, e qui noi forse abbiamo una responsabilità, perché forse un po' anche noi abbiamo perso questa idea che il lavoro è fondamentale. Perché attraverso il lavoro io mi realizzo. E diceva ieri una persona, l'umiltà non è nel lavoro, è che io devo essere umile nel lavorare, perché il lavoro che io faccio è fondamentale, è importante, io mi realizzo attraverso questo lavoro lì. Non c'entra se uno fa il direttore, se uno fa, perché se è una fabbrica, c'è solo marchionne, la fabbrica non funziona. E questo è una parte, ma per stare nei tempi. L'altra cosa che voglio discutere, che proporrò al mio congresso, quindi, ma proporrò a tutti, lo voglio così in un minuto anticipare, è questa questione qui del fatto che diventiamo sempre di più, cioè viviamo di più. Io spiego sempre che vivere di più è un esito delle lotte sindacali, perché quando noi in fabbrica abbiamo negli anni 70 e anche prima detto che la salute non si monetizza, che abbiamo posto il tema dell'ambiente, abbiamo posto il tema delle riforme, a partire da quella sanitaria. Questo ha portato come esito che noi siamo uno dei paesi, assieme al Giappone, dove si vive di più. Allora, se si vive di più, allora o noi abbiamo un'idea che il costo degli anziani è un peso, o invece, come io penso, il fatto che viviamo di più, abbiamo un'opportunità di lavoro, abbiamo un'opportunità di dare un contributo alla società. Allora, se noi, questo è un problema nostro, che noi dovremmo affrontare bene, perché tutti parlano che costiamo troppo, no? Addirittura Piende l'Inps ha detto, ma noi pagando le pensioni anche a 30 anni, 35, non lo so se lui pensa che ci dobbiamo gasare dopo un certo periodo. Secondo me dovrebbe già essere, fosse un governo serio, avrebbe già mandato a casa da un po' di tempo, ma comunque ce l'abbiamo ancora lì. Però dicevo, noi abbiamo un'idea su questo, allora se io metto insieme quello che spende, quello che ci mette lo Stato, le regioni, i comuni, ma soprattutto le famiglie, qui parliamo di miliardi. Allora è possibile, se prendendo a scelta la domiciliarità, perché noi abbiamo tutti i servizi sulla residenzialità, se noi prendiamo a tema la domiciliarità, noi dobbiamo chiedere ai giovani, a tutti, di vedere come si può fare una cosa diversa, perché oggi noi abbiamo un sistema sociale dove le donne non possono usufruire della pensione, perché quando hanno finito di lavorare hanno i nonni, i figli, i nipoti e così via. Oppure le donne devono venire dall'estero, e anche qui il peccato originale, per chi ci crede, io ci credo, ce l'hanno tutti, non è che quelle sono sante e no, perché c'è di tutto anche nel loro interno, però dico, da un punto di vista logico, noi abbiamo un sistema che relega le persone a stare isolate, l'anziano e la badante. Allora io vorrei, su questo chiudo, che noi mettessimo in atto, e ci sono già delle esperienze che fanno, anche l'Antes sta facendo delle esperienze, per vedere se c'è un modello diverso per vivere la domicilità, se si può vivere diversamente, a partire da come si progettano le città, le case e così via. E se quindi ci può anche essere un lavoro per questi qui. Secondo me, se tutti i miliardi che hanno messo sul job act li mettevano sul sociale, forse ci creavano molti posti più lavoro. Comunque vi ringrazio, ringrazio la Rosina, io vengo volentieri, perché qui ho tanti amici, e grazie per l'invito al congresso.